giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buon Natale da Paolo Roncoletta, Dario Ronzoni e da tutti noi dalle sede regionali del Friuli Venezia Giulia. Questi i nostri titoli. Il tema della pace ricorre nelle omelie dei vescovi del Friuli Venezia Giulia in occasione delle messe di mezzanotte. Oltre 500 chiamate al numero unico di emergenza 112 nella notte di Natale, in aumento rispetto a un anno fa, ma nella metà dei casi non si trattava di vere emergenze. Cordoglio per la scomparsa di Franco Frattini, più volte ministro nei governi Berlusconi e primo presidente del GECT di Gorizia. Un emendamento al decreto mille proroghe potrebbe aprire nuove possibilità di ristori ai risparmiatori truffati nei crack delle banche venete. L'appello all'accoglienza di studentesse universitarie in fuga dall'Afghanistan. Un paio di loro hanno contattato un connazionale che ha studiato ingegneria e vive a Udine. Gli educatori per i servizi socioeducativi per minori con disabilità dovranno avere requisiti di formazione ben precisi, lo ha stabilito una sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia che ha annullato una norma regionale. Continua il muro contro muro tra Poste Italiane e alcune sigle sindacali, proclamato lo stop degli straordinari. Corsa agli acquisti ieri sera per i regali natalizi e a Trieste gli alberghi si preparano al pienone previsto nei prossimi giorni. Po Fabbro delle Pralpe per Pordenonesi è il paese dei presepi collocati lungo le stradine del piccolo borgo della Valcolvera. 8:31 minuti e 30 secondi, ancora buon Natale da Dario Ronzoni e Paolo Roncoletta. Anzitutto uno sguardo al tempo, il cielo si presenta prevalentemente nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Le temperature registrate alle 8, abbiamo 10 gradi a Trieste, in pianura abbiamo 8 gradi e mezzo a Gorizia e a Udine, 7 e mezzo a Pordenone, 5 a Tolmezzo, 2 gradi a Forni di Sopra, meno 1 grado a Tarvisio, a Sappada meno 2 gradi, in quota abbiamo 0 gradi sullo Zoncolan e 1 grado sul Lussari, torniamo sulla costa, 9 gradi a Lignano, 10 a Grado. Le previsioni su pianura e costa, cielo in prevalenza coperto con probabili foschie e possibili nebbie, specie sulle zone orientali dove saranno possibili delle piovigini o deboli piogge. Sulle prealpi probabile cielo variabile o nuvoloso con foschia. Sulle zone montane più interne ed in quota della Carnia e del Tarvisiano probabile tempo migliore con cielo poco nuvoloso. Zero termico a 3000 metri di quota circa, ma ci sarà marcata inversione termica nei bassi strati. E la pace al centro dell'omelia della notte di Natale dell'arcivescovo di Gorizia Carlo Roberto Maria Redaelli, che fin dall'inizio ricorda il conflitto in Ucraina. La pace è un dono di Dio, dice, ma non è un dono automatico, va chiesta e va accolta con disponibilità e impegno. Se vogliamo la pace occorre avere una buona volontà di pace, e questo non vale solo per i potenti ma per tutti. Un tema che ricorre anche nell'omelia del vescovo di Pordenone Giuseppe Pellegrini. Quel popolo che camminava nelle tenebre è l'umanità di oggi, che cerca la luce della verità e che si trova ancora immersa nel buio dell'egoismo, della discriminazione e delle guerre insensate che stanno provocando morti, distruzioni e rabbia nel cuore di tante persone. Nel suo messaggio alla diocesi, l'arcivescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, ricorda che i tanti auguri di Buon Natale, che riempiono di gioia le festività natalizie, devono tradursi in un generoso impegno per la pace. Essa è un edificio sempre in costruzione che accoglie qualsiasi operatore che abbia una volontà buona. Tutti nella loro quotidianità sono chiamati a questo impegno. In mezzo alla confusione di opinioni ascoltiamo anche quest'anno l'annuncio che Dio, con la nascita di Gesù, ha tracciato una via santa per la salvezza degli uomini, ha detto nel suo messaggio la diocesi l'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato. Nelle città e nei paesi in cui è giunta la sua via santa, essa ha fatto germogliare grandi opere di bene, ha forgiato la civiltà europea e la nostra civiltà friulana, partendo da Aquileia cristiana. Gli appuntamenti religiosi di questo Natale, i principali: a Trieste l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi presiederà in cattedrale alle 10:30 la celebrazione eucaristica del giorno della Natività del Signore, alle 18 sempre in cattedrale i secondi vespri della solennità. L'arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato presiederà dopo la messa in carcere l'appuntamento in Duomo alle 10:30 e alle 17 i vespri. Lunedì la messa nel carcere di Tolmezzo. A Gorizia l'arcivescovo Carlo Maria Redaelli celebrerà alle 10 in Sant'Ignazio. E a Pordenone il vescovo Giuseppe Pellegrini ha celebrato la messa alle 7 in ospedale, alle 9:30 celebrerà a Concordia Sagittaria, alle 11:30 in concattedrale a Pordenone. A Trieste la comunità religiosa serbo-ortodossa festeggerà la ricorrenza del patrono San Spiridione Taumaturgo con un vespro solenne alle 17. Nella notte di Natale sono pervenute al numero unico di emergenza 112 poco più di 500 chiamate, un aumento del 21% rispetto all'anno scorso. Di queste, quasi la metà erano inappropriate e non rappresentavano una vera emergenza. 8 chiamate, invece, erano per malore di persone dovute all'abuso di sostanze alcoliche. Intorno alle 4 del mattino un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto lungo la statale Pontebbana nel tratto tra Codroipo e Basaglia Penta. Per motivi ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura e è finito contro un platano. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza da Codroipo insieme ai vigili del fuoco. Il giovane, che ha riportato diversi traumi, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. A Trieste, intorno alle 22.30 di ieri, un uomo a bordo della sua moto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro un muro. L'uomo, soccorso da un'ambulanza proveniente da Opicina, ha riportato una grave lesione alle dita dei piedi ed è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Cattinara. 8:35 minuti 50 secondi, cordoglio anche in Friuli Venezia Giulia per la morte di Franco Frattini, avvenuta a Roma. 65 anni, presidente del Consiglio di Stato, esponente di Forza Italia e più volte ministro nei governi Berlusconi, Frattini è stato il primo presidente del JECTGO, il gruppo di cooperazione europea Gorizia-Nova Gorizia, quasi 11 anni fa. Frattini è stato, lo ricordiamo, ministro degli esteri per la funzione pubblica e affari regionali, ministro per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato. La possiamo definire una buona notizia, arrivata giusto in tempo per il Natale. Il fondo indennizzo per gli azionisti che hanno perso i loro risparmi con il crack delle banche venete non chiuderà a fine anno e ci sarà la possibilità di ulteriori indennizzi perché la somma a disposizione non è stata esaurita. 1 miliardo di euro utilizzato rispetto a una dotazione iniziale di 1,5 miliardi. Che fare delle risorse avanzate dal fondo per gli indennizi ai risparmiatori delle banche, fallite tra il 2015 e il 2018? Si è giocata intorno a questa domanda una delle trattative più serrate della legge di bilancio, legata alla sopravvivenza stessa del fondo, creato per compensare parzialmente risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Con il rischio che le somme non ancora spese, 500 milioni di euro, venissero utilizzate per altri scopi. In questi anni circa 137.000 risparmiatori, 16.000 di questi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, sono riusciti a recuperare il 30% del costo di acquisto delle azioni per un massimo di 100.000 euro. Giorni di emendamenti alla finanziaria, presentati a tarda sera e ritirati all'alba, ma da fonti governative e dal senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, emerge che la commissione tecnica che valuta le procedure di rimborso sarà rinnovata di altri 6 mesi, non in finanziaria, ma nel decreto mille proroghe. Un'estensione non solo formale per dirimere gli ultimi contenziosi. Consentirà di tenere a disposizione degli indennizi il saldo residuo, con la speranza di mettere a punto nel frattempo una normativa per la redistribuzione delle rimanenze di fondo a vantaggio dei risparmiatori coinvolti. Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Sicuramente le situazioni sono molto fragili e vulnerabili, considerato anche l'attuale periodo economico che stiamo vivendo, quindi la nostra richiesta è quella di procedere con il riparto dell'avanzo, che è circa di 500 milioni di euro. Questo porterebbe gli indennizi dal 30% a circa il 45%, che non è tantissimo, però sicuramente è già qualcosa. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Udine ha accolto subito l'appello per far giungere studentesse afghane che nel loro paese non hanno potuto completare gli studi. Nell'Ateneo friulano hanno studiato 2 loro connazionali e ci sarebbero giovani disposte a trasferirsi in Italia se potranno farlo. Dalla prima emergenza in Afghanistan, passando agli studenti ucraini ed ora alle giovani donne afghane alle quali è stato bandito l'accesso agli Atenei, l'Università di Udine conferma e sostiene le iniziative intraprese per aiutare e accoglierle. Non solo l'Università come luogo di aggregazione e crescita sociale, pronta ad accogliere studenti di tutto il mondo che si trovano a vivere situazioni di discriminazione e violenza. Giorgio Alberti, delegato all'internazionalizzazione dell'Università di Udine. Un programma di accoglienza che poi è stato molto utile per poter rispondere all'emergenza ucraina. Tanto è vero che oggi presso il nostro Ateneo abbiamo 13 studenti ucraini, di cui quasi il 50% sono ragazze. Il sistema accademico del Friuli Venezia Giulia è un modello di riferimento, grazie al piano della regione, per dare una risposta alle situazioni di conflitti e discriminazioni che incidono in particolare sul futuro delle donne e sul loro accesso all'istruzione superiore. Arnad Taweb, neolaureato in ingegneria all'Università di Udine. Per leggi talebani, uscire una donna, una studentessa, una ragazza da casa che ha superato la età 15 anni è fuori legge dei talebani. Tu sei in contatto con qualche studentessa che vuole venire? Sì, ho contatto con un paio di studentesse che loro vogliono venire qui a studiare. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha dato ragione ad un'associazione di educatori. Chi svolge questo compito deve avere una formazione specifica, figure che però sono difficili da reperire. La Regione prova a risolvere il problema della carenza di educatori allargando le maglie per il reclutamento del personale per i servizi socioeducativi territoriali, ma il TAR boccia la delibera. Tutto nasce dalla riforma della professione operata con la legge 205 del 2017, che ha determinato una carenza di operatori in possesso dei titoli necessari. Contemporaneamente, la pandemia ha aumentato le prese in carico di minori e provocato un esodo degli educatori verso la scuola. In Friuli Venezia Giulia è stata segnalata dai servizi sociali dei comuni e in particolare da quello Friuli Centrale una grave difficoltà nel reperire educatori per i servizi socioeducativi per minori e per minori con disabilità, senza contare che diversi servizi sociali hanno ottenuto finanziamenti dal PNRR per progetti che richiederanno un ulteriore potenziamento degli organici. D'altra parte, da una ricerca dell'IRES FVG emerge che al 1 gennaio del 2022 dei 2.157 operatori impiegati nella cooperazione sociale con funzioni educative, solo 1.213 erano in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa. E la carenza di personale con funzioni educative riguarda anche l'ambito penitenziario. Sono quindi a rischio la continuità dei servizi e la presa in carico di nuove situazioni complesse, ma la soluzione non potrà essere quella pensata dalla Regione, di ammettere all'esercizio della professione fino alla fine del 2023 anche figure non previste dalla legge nazionale. Il TAR ha infatti accolto il ricorso dell'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani e ha così annullato il provvedimento. Secondo i giudici, la delibera va oltre le competenze regionali, derogando a una legislazione statale che aveva già a suo tempo previsto un periodo transitorio per far fronte a un fenomeno che riguarda tutta Italia. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Stop agli straordinari da parte di alcune sigle sindacali delle Poste e Cetola CISL. L'agitazione durerà per 2 settimane. Proclamato in Regione lo sciopero degli straordinari per 2 settimane nel settore recapito di Poste Italiane. L'astensione è stata indetta da 5 delle 6 sigle sindacali delle Poste, a eccezione di quella maggioritaria, la CISL. Scatterà dal 3 al 15 gennaio, in quanto, scrivono i sindacati in un comunicato, hanno avuto esito negativo le procedure di raffreddamento del conflitto di lavoro aperto a inizio settimana. Ancora non quantificabile l'effetto sulle consegne. Le sigle prevedono una forte adesione allo sciopero, aperto a tutti, con disservizi maggiori soprattutto nelle zone di Trieste e Gorizia. L'azienda occupa in regione circa 2.000 lavoratori. I sindacati denunciano una carenza di personale, con perdita di occupati di circa un terzo nell'ultimo decennio, eccessiva precarizzazione dei contratti, il ricorso smisurato agli straordinari, mancata formazione del personale, pressioni e difficoltà nel fruire le ferie per chi ha contratti a tempo determinato. L'azienda non avrebbe finora fornito risposte soddisfacenti, da cui la decisione dello sciopero degli straordinari. Nell'immediato si stanno valutando anche azioni sindacali per i problemi, legati all'assenza di personale, che affliggono il settore economico-finanziario, ovvero quello di Sportello. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste ieri sera c'è stata una vera e propria corsa all'acquisto dei regali natalizi, anche se, secondo i dati Coldiretti XE, quest'anno il 42% degli italiani ha speso meno di 100 euro. E cosa manca? I regali più importanti, quelli degli affetti più cari. E manca ancora il regalo per mia nonna, che questo sarà il suo 100° Natale. Poche ore ci separano dal tradizionale scambio dei doni natalizi, ma c'è chi i regali deve ancora farli e affolla le vie del centro di Trieste per trovare l'idea giusta o per acquistare il presente meditato da tempo. Regalo dell'ultimo minuto? Esatto, proprio così, ma è un regalo pensato per mia figlia, che è un regalino, che voleva proprio questo tipo di scarpa. Regali dell'ultimo minuto? Sì, sì, sì, assolutamente. Per amici? Familiari. Parenti e amici, sì. Purtroppo tutto all'ultimo momento. Presenze che, assieme a quelle dei giorni scorsi, permettono ai commercianti di delineare un bilancio più che positivo. Tanti clienti anche oggi per le ultime rifiniture. Siamo abbastanza soddisfatti di quello che è stato il nostro lavoro e forse addirittura meglio nelle prime giornate. Gli ultimi giorni sembrano un pochino più tranquilli, ma perché penso che rispetto al solito la corsa sia un po' meno frenetica. C'è stata programmazione, ma anche acquisti dell'ultimo minuto. Effettivamente il libro da sempre un buon rifugio. Quest'anno abbiamo venduto tante cose per fare regali, soprattutto per via del freddo, coperte, piumini, cose utili quest'anno. Ma nel sabato della vigilia non manca chi cerca qualcosa per sé o fa una semplice passeggiata per vedere le vetrine e le bancarelle dei mercatini di Natale. Regali personali, i regali abbiamo già fatto tutto. Un acquisto per me, nessun regalo. Quindi già provveduto? No, proprio non ho provveduto quest'anno, si risparmia. Hai già fatto tutti i regali? Neanche uno. No, scherzo. Però sì, è più importante... Più importante è stare insieme dei regali. Trieste, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notissima piattaforma per la prenotazione degli alberghi promuove a pieni voti le strutture ricettive di Trieste, che nei prossimi giorni, in vista del Capodanno, faranno registrare il tutto esaurito. Trieste si prepara ad accogliere il pienone di turisti. Per il periodo di Capodanno è previsto il tutto esaurito, anche nei B&B che nel capoluogo giuliano sono particolarmente frequentati. Come conferma Elvio Tonsi dell'Associazione Nazionale Bed and Breakfast di Trieste. Ce ne sono tante, la qualità media è piuttosto alta, guardando i rating della piattaforma principale, le nostre strutture cittadine hanno quasi tutte sopra il 9 con eccellenze di 9, 7, 9, 8, per cui la qualità e soprattutto l'apprezzamento da parte degli ospiti è molto molto buono. Sento la gente che chiama e dice non vediamo l'ora di visitare la vostra città, per cui è una città effettivamente molto molto rinomata, ecco, diciamo, da questo punto di vista, e apprezzata dalle persone, e ci tornano anche. E le presenze turistiche nei B&B sono tornate ai livelli pre-pandemia. Forse anche un po' sopra, perché vedo le telefonate che noi riceviamo e dobbiamo dire spesso di no, sono notevoli. Grande soddisfazione anche da parte degli albergatori per il trend delle prenotazioni. Alcuni hotel in questi giorni di Natale restano chiusi e quelli aperti hanno in genere un'occupazione del 50%, spiega il presidente di Federalberghi Trieste, Guerino Lanci. Ma a partire dal 27 e 28 dicembre tutte le strutture ricettive saranno aperte e per Capodanno c'è già quasi il sold out. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. La comunità di Sant'Egidio organizza, come da tradizione, il pranzo di Natale con le persone che segue durante tutto l'anno, senza fissa dimora, anziani, famiglie in stato di difficoltà, studenti della scuola di italiano. Il pranzo sarà nella sala C del magazzino 27 a Porto Vecchio. Al pranzo sono previste circa 250 persone. Saranno presenti anche l'arcivescovo Crepaldi, l'assessore Carlo Grilli e il presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi. Poffabro, frazione di Frisanco nelle Prealpi Pordenonesi, è conosciuto come il paese dei presepi collocati lungo le vie del borgo. Da 25 anni Poffabro diventa presepe tra i presepi, quest'anno con oltre 300 creazioni visitabili fino al 15 gennaio. Il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo. Un'edizione per noi particolare perché appunto testimonia 25 anni di impegno dei volontari nel realizzare questo evento, ma soprattutto insomma un inizio per quello che verrà di qui in avanti, quindi valorizzare questo borgo. È un'edizione ricca di appuntamenti che fa trovare chi appunto viene in valle a passare qualche ora lungo le nostre vie, lungo il nostro borgo, a vedere i presepi, ma anche qualche momento di riflessione. Esempi di arte e devozione esposti nella chiesa di San Nicolò o incastonati negli angoli più caratteristici, capaci, come sempre, di incantare il visitatore. Il parroco di Poffabro, Don Andrea Avena. Dostoevskij diceva che la bellezza salva l'anima. Ecco, io credo che la bellezza di Poffabro ci faccia risvegliare la gioia, l'emozione, la tenerezza di questo bambino che viene incontro a noi, il Dio che si fa uomo per noi, per la nostra salvezza, per la nostra gioia. È questo ciò che ci attrae e che risveglia i nostri cuori. Oltre ai presepi si può ammirare da vicino il lavoro di artigiani e artigiane come Clarissa, che realizza scarpetti della tradizione. Clarissa Rosa Gobbo. È una tradizione che si tramanda da diverse generazioni nella mia famiglia e da circa 3 anni porto avanti quest'arte, mantenendo sia la versione tradizionale sia la versione un po' più moderna. Significa portare avanti la memoria di un mestiere che ormai sta purtroppo scomparendo. Poffabro, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone il concerto La Notte di Natale nella Pieve di Sant'Ulderico a San Dorligo della Valle con la regia di Marco Manin. Termina così la prima edizione odierna del giornale radio regionale, redatta da Dario Ronzoni e Paolo Roncoletti. In redazione ha collaborato Samantha Gon, assistenza tecnica di Paolo Cassano. Appuntamento alle 12.15 per l'edizione meridiana. A tutti voi ancora l'augurio di Buon Natale. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.